Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio chiude il primo mese in onda con una puntata speciale interamente dedicata allo studio all'estero. Drizzate dunque le orecchie, soprattutto se siete giovani studenti delle scuole superiori tentati dall'idea di fare un'esperienza che cambierà la vostra vita. Il testimone di oggi vi racconterà la sua storia e vi darà le necessarie dritte pratiche a seguirne le orme. Ma non è finita qui, nel menu che abbiamo preparato per voi, perché la nostra cassetta degli attrezzi Toolbox vi offrirà tutti gli strumenti pratici per andare ad avviare la vostra startup in Silicon Valley, sogno e mecca di tanti giovani imprenditori innovativi. Infine, le ultimissime offerte di lavoro dal mondo con Face for Job e la chiusura in bellezza con la vostra corrispondenza. Generazione Mobile. Restiamo in tema di studio all'estero con lo spunto settimanale. È in aumento la quota di laureati che sceglie di svolgere un periodo di studi oltre confine con un programma Erasmus o con un altro programma comunitario. Era il 6% nel 2006, percentuale cresciuta fino all'8% tra i laureati 2016, e per loro aumentano del 12% le chance di trovare impiego già a un anno dal titolo a rivelarlo alma laurea. Così, come crescono, secondo i dati Indire, i tirocini Erasmus nel 2015-2016, dalle università italiane sono partiti 7.666 studenti per uno stage in aziende straniere, il 20% in più rispetto all'anno precedente. E infine è stata finanziata per quest'anno accademico la mobilità Erasmus Plus di oltre 32.000 studenti italiani. Si stima una crescita di oltre il 40% del numero di studenti in partenza dagli Atenei della penisola. Ciò significa che in realtà gli universitari italiani in uscita saranno oltre 41.000. Toolbox. Fare impresa in Silicon Valley. Tra voi giovani imprenditori innovativi all'ascolto, chi non ha cullato almeno una volta questo sogno nella speranza di fare il grande salto nel cuore dell'innovazione? Alcuni ce l'hanno fatta e c'è chi ne ha carpito i segreti, come il giornalista Roberto Bonzio, ideatore e fondatore del progetto Italiani di Frontiera, che oggi a Toolbox ci fornisce una serie di spunti e strumenti pratici per tentare l'impresa. Penso che fare un'esperienza in quella zona con delle scuole per imprenditori come quella di Mind the Bridge, che ti insegna le dinamiche e il funzionamento, è sicuramente utile. Ma c'è una parola chiave che non è una parola magica, ma che è l'unica, secondo me, sulla quale veramente si può costruire una possibilità di gettare le basi per un'impresa lì, e che è il far rete, il networking. Cioè bisogna investire del tempo per andare con un visto magari turistico, un'ottima idea magari, e investire in questo networking che è semplicemente furioso, persino compulsivo. Tutti i giorni ci sono svariati eventi, incontri, di presentazioni per startup, con incontri con investitori, eccetera. E ti cito il caso di una delle startup italiane di maggior successo, MyShape. Il primo passo è stato trasferirsi lì, dormire sui divani, mangiare scatolette e andare compulsivamente tutti i giorni a più eventi e cercare di fare, di trovare, di agganciare, di intrigare con il proprio progetto la persona giusta. Ecco Roberto, allora provo un po' a sintetizzare: prendetevi un visto, fate le valigie, mettete in conto un periodo anche abbastanza lungo, e una volta arrivati ci sono dei siti dove trovare queste fiere, questi eventi, e dove appunto cominciare a fare networking. Ma sì, l'imbarazzo della scelta, Sergio, diciamo che il visto, comunque bisogna pensare all'inizio di andare con un visto turistico, perché è impensabile avere un visto di lavoro andando lì con una startup. C'è l'imbarazzo della scelta anche sui siti, sui gruppi di Facebook, sulle grandi riviste, da TechCrunch, eccetera, per poter scegliere dove andare la sera. Ma ti dico, bisogna farlo con una determinazione mostruosa. Io questo l'ho visto in Augusto Marietti e Marco Paladino di MyShape. Ti dico che Marco aveva addirittura i biglietti con scritto Mark invece che Marco, per non sembrare, non per non sembrare italiano, per sembrare uno che aveva già le basi lì. Avevano deciso di non frequentare i giri italiani solo perché dovevano andare individualmente a proporsi costantemente a investitori, e lui ci ha raccontato che uno di questi investitori l'hanno tampinato talmente tanto, ma talmente tanto, che a un certo punto lui ha detto: guarda, io sto pensando, se mi costa di più pagare qualcuno che ti venga a spezzare le gambe o ascoltarti veramente con il tuo progetto. E alla fine questo modo, diciamo, compulsivo di andare, di non cedere mai, alla fine tutto sommato è stato pagato. Roberto, una cosa importante la zona dove andare, San Francisco, Palo Alto, qual è un po' la città su cui fare perno? Ma San Francisco, perché diciamo che tutte le persone che lavorano, quasi tutti quelli, che buona parte di quelli che lavorano, soprattutto i giovani che lavorano anche nelle grandi aziende che hanno startup sparse per la Bay Area, cercano di vivere a San Francisco, ma poi gli eventi poi sono comunque sparsi, perché poi basta vedere i calendari, ci sono grandi eventi che possono essere anche a Palo Alto o Redwood City, ma sono distanze che si coprono in un'ora e un quarto di macchina. Un'ultima cosa, Roberto, anche questa è importante: non c'è solamente chi vuole fare imprese, portare la propria idea di startup in Silicon Valley, c'è magari anche chi vuole semplicemente andare a lavorare per uno dei grandi giganti del web. Qui il tuo consiglio è lo stesso oppure può anche avere sfumature differenti? Ma penso che il consiglio sia lo stesso, frequentare lì è fondamentale per non solo conoscere le persone che possono darti l'aggancio giusto, ma soprattutto conoscere il modo di pensare. L'ostacolo maggiore per gli imprenditori professionisti che arrivano lì magari con un'ottima idea, con anche forse un po' di, a volte, di presunzione, di non capire come sono le regole e i modi di pensare lì. Arrivare ad un appuntamento un quarto d'ora in ritardo per noi è naturale, fisiologico. Se lo fai per un appuntamento di lavoro, lì sei segnato, sei spacciato. Mandare chiedere un consiglio, un aggancio con una mail, per noi ottenere questo importante aggancio e non ringraziare è quasi la regola da noi. Se lo fai lì la prima volta, cioè questo di non dare un follow up, un riconoscimento per quello che ti è stato dato da persone magari disponibili, sei spacciato. Quindi andare lì, frequentare, capire è fondamentale, perché la prima cosa, il primo ostacolo da superare è veramente un ostacolo culturale. Una cosa importante per chi magari non se la sente di prevedere un periodo lungo di ricerca oltreoceano, vale anche il mandare un curriculum o attraverso LinkedIn, contattare questi giganti del web dall'Italia e provare già ad avere un colloquio? Provare sicuramente vale la pena, seguire anche i social, provare sicuramente può servire. Mandare il curriculum, bisogna seguire molto quali sono i profili richiesti, come sono definiti questi profili e se la propria figura corrisponde, e sicuramente tentare penso che possa sempre essere utile. Per maggiori informazioni www.italianidifrontiera.com. Il testimone. Il testimone di questa settimana di Generazione Mobile, siamo andati a scovarlo molto lontano, perché ha fatto una scelta davvero insolita: studiare in India, un anno nel Punjab, a confrontarsi con una cultura e un sistema scolastico decisamente diversi. Buon pomeriggio, Paolo Maresca. Buon pomeriggio. Come sta andando, Paolo? Tutto bene, grazie. Fa un po' caldo, ma bene. Cominciamo dall'inizio. Chi sei? Presentati tu stesso ai nostri ascoltatori. Ciao, sono Paolo, vivo generalmente a Milano, nel centro di Milano, e ho fatto una scelta difficile di andare a vivere dall'altra parte del mondo. Per il resto vivo una vita felice e calda qua. Fa molto caldo e tra poco ci racconterai meglio. Però Paolo, cosa ti ha spinto a prendere la decisione di candidarti a studiare un anno fuori dall'Italia? Allora, io volevo vivere un'esperienza nuova, completamente differente da quello che vivevo a Milano. Innanzitutto volevo riniziare da zero, dove non conoscevo nessuno, non avevo nessuno con cui confrontarmi che mi potesse aiutare, per vedere se ero all'altezza di fare un'esperienza del genere. E finora si è realizzata una ottima scelta. Allora, tu quando ti sei candidato al bando Intercultura avevi portato avanti varie scelte: Giappone, Argentina, Cina e anche India. Tutti posti molto lontani geograficamente, perché poi alla fine proprio l'India? Allora, l'India è stata una serie fortunata di eventi che mi ha portato l'AFS, la mia associazione, ha deciso di mandarmi lì, perché dopo aver visto i testi, gli esami che avevo fatto con FS, ha visto che il mio inglese era molto buono, hanno detto: perché non vai in India, dove avresti anche facilitazione con la lingua? Io ho detto che non avevo problemi e alla fine mi sono trovato in una piccola città, ma con tutte le comodità che mi servivano. La lontananza geografica purtroppo la sentiamo anche nella linea telefonica, ma chiaramente stai parlando dal Punjab. Come ti sei preparato per la partenza, Paolo? È stato un po' difficile lasciare tutto quello che avevo ottenuto, tutta la mia vita, lasciarla per un anno intero, però cioè, devo ringraziare soprattutto amici e famiglia che mi hanno aiutato nel lasciarmi andare, ecco. Preparazione poi per il resto, dobbiamo parlare di bagagli eccetera, ho portato il necessario. Tu sei approdato a Patiala, città appunto del Punjab, ce la descrivi? Patiala, allora, io vengo da Milano, del centro di Milano, e Patiala è un paesino di provincia dell'India, nella campagna, quindi è un mondo completamente diverso. Generalmente a Patiala

olandese, leader al mondo nella costruzione e manutenzione di ascensori e scale mobili, cerca 24 ingegneri, soprattutto elettrici, in Francia, oltre che nell'headquarter di Espoo in Finlandia. Segnaliamo anche un'azienda italiana, la Leonardo Finmeccanica S.p.A., che cerca 55 figure all'estero tra ingegneri e tecnici specializzati, in Inghilterra, la maggior parte, Belgio. Queste sono soltanto alcune delle offerte più recenti che potete trovare registrandovi al sito www.faceforjob.com. Internet Point. Siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Tornano anche le vostre lettere che gli anni scorsi avete inviato a giovani talenti e che da questo mese vi invitiamo a spedire al nostro nuovo email generazionemobile@radio24.it. Col cambio di format della trasmissione vi invitiamo pure a rifocalizzare il contenuto delle vostre missive. Vi chiediamo o di portare testimonianze concrete, dirette e suggerimenti utili per lavorare e studiare all'estero, oppure al contrario porre domande e chiedere consigli lasciando l'indicazione di una casella email per la risposta. Rendiamo insomma Internet Point un vero e proprio punto di incontro e scambio informazioni tra chi intende andare all'estero e chi invece ha già compiuto questo percorso. Oggi vi proponiamo la lettera di Mario. Buongiorno, mi chiamo Mario, ho 32 anni e sono un cittadino italiano residente in Francia da ormai 10 anni. Mi è venuta voglia di portare alla luce un fenomeno, storicamente ben noto e oggi sempre più crescente, quello sì della fuga di cittadini italiani all'estero, ma di cittadini che semplicemente offrono le loro braccia e il loro sudore per avere diritto a una vita più dignitosa. Dignità che spesso non si riesce a trovare in un mercato del lavoro italiano che ormai stagna da troppo tempo. Vorrei che dedicaste una puntata alla semplice fuga delle braccia, a tutta quella classe operaia, nella quale ho il piacere di trovarmi, che molla l'Italia per andare semplicemente in fabbriche o in cantieri europei, come hanno fatto i nostri nonni e parenti emigrati in Belgio, Francia, Germania, Svizzera, e hanno partecipato alla creazione di ricchezze e benessere in questi paesi che li hanno accolti. Io porto la mia esperienza perché credo che molti giovani siano sempre più invogliati ad emigrare, perché qui non riescono letteralmente a guadagnarsi il pane, ma spesso esitano a farlo per mancanza di fiducia o perché non conoscono l'Europa. Parlo per la Francia, nella quale mi trovo benissimo da due lustri, uno passato come militare nella Legione straniera e l'altro tra una fabbrica e l'altra, e mi sento dire che, con un minimo di comprensione della lingua, un qualsiasi giovane di buona volontà, con un semplice diploma in tasca, può trovare il suo posto in una società aperta, accogliente e un mercato del lavoro flessibile, con retribuzioni di tutto rispetto, dignitose, un'assistenza buona e umana, cose che l'Italia non vuole dare ai suoi giovani. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere, testimonianze personali? Scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro e imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia? Soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.